La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. L'articolo 14 pone la seconda grande libertà. La libertà non è solo della persona, ma anche il domicilio. E infatti il domicilio viene tutelato e declinato allo stesso modo. Il domicilio è inviolabile. Ricordiamo, inviolabile significa che i pubblici poteri possono limitarlo solo in casi eccezionali e senza mai eliminarne la garanzia essenziale. Questo significa inviolabile per la Costituzione. E la Costituzione dichiara inviolabili nei primi tre articoli sulla libertà, libertà personale, libertà di domicilio e libertà di corrispondenza, proprio per dare subito l'idea che i diritti della persona sono il fondamento del rapporto statale e che lo Stato non può incidere perché sono diritti della persona. Anche qui il domicilio è inviolabile, per cui ispezioni, perquisizioni, sequestri devono sempre essere eseguite con le garanzie previste dalla legge e quindi atto motivato dell'autorità giudiziaria e sulla base di prescrizioni legislative. Una doppia garanzia, cioè non basta che il giudice decida di eseguire una misura, ma deve essere prevista dalla legge. Ricordiamo sempre che venivamo da un'epoca di un regime poco liberale, quindi servivano garanzie precise e specifiche in Costituzione. Una curiosità, la Costituzione garantisce il domicilio, ma che cos'è il domicilio? È solo casa propria, l'abitazione? Assolutamente no. La giurisprudenza, soprattutto la Corte Costituzionale, ne hanno dato una lettura molto ampia. Quindi domicilio è qualunque dimora della persona in quel momento, l'automobile, la camera d'albergo, addirittura oggi il domicilio informatico, perché giustamente va intesa la garanzia della libertà del proprio spazio in maniera più ampia possibile.